Liscio, se stiro col pipe sante, oh, sparo bu bu check, dritto sulle mie persone. Pensa come rimarresti se qualcuno questa sera muore. Sento aria street, spaccio rit, tanti quanti sono beat. Questa festa gangsta mi detesta, quindi porto bitch. Ehi, J2DM, marchio registrato. Ehi, tu se ci sei, dove sei arrivato? Che ho già sgamato, mirato e puntato. K47, boom, come un soldato. Boom, boom. Vado dritto, rigo dritto, non mi volto mai. Sono accompagnato da me, bro, stasera sarà guai. Quindi levati dal cazzo, non mi scapperai. Adesso sbrigati o ti ammazzo, già lo so che non ce la farai. Dopo le lotte leso, faccio freestyle. Fumo erba, mi son già ripreso, e quindi dai. Da regalami una miccia accesa, faccio presa sull'impresa. Cazzo di chi è sta roba? Tira, tira, tira, che la riva è tesa. Trattieni il fiato, a lungo che si parte. Parte di sto gioco, il suono e do le carte. Sto con in tasca Jolly Air. Ricordati sto tuono, Binevrosi Kevin Air. Ok, sì. Come on, come on, sì. Quelle cazzo di mani. E dai, yeah. Sì, sì. Jolly L e Nevrosi, man. That's your man. New Remember shit. 2009. Thank you.